Paolo Travagnin e Paolo Famiglietti presentano Il mondo di Carosone. Porte cazzone con un stemma a rete. Ben ritrovati amici della Radio Vaticana, un saluto da Paolo Famiglietti e Paolo Travagnin. Eccoci qui pronti con Il mondo di Carosone, puntata numero 2. Tante belle canzoni da ascoltare, alcune anche da scoprire, perché raccontate dall'abile Paolo Travagnin, che per molti anni è stato vicino al maestro Carosone, vicino musicalmente e vicino anche umanamente, possiamo dire. Sì, sì, sì, molto vicino anche umanamente, proprio perché è nata una specie di simpatia così viscerale. Io non so per quale motivo, ma ho sempre amato il mondo di Napoli, il mondo e i napoletani, forse sarà per l'arte che si respira, per il profumo, il caffè, non lo so, la melodia napoletana che è sempre stata grandiosa. Pur essendo te veneziano. Esatto, pur essendo veneziano, ma poi, come dicevo la scorsa puntata, la moglie di Renato è veneziana, perciò forse c'è stata questa comunanza. Io mi ricordo sempre una delle cose puntuali che il maestro ci faceva sempre, ma in particolare a me, perché da buon veneto, come sai, i veneti bevicchiano un po', insomma, sì, non sono amanti esatto, del buon vino, insomma. E il maestro era un amante dello scotch, anzi del whisky di puro malto, ecco, diciamo questa era una caratteristica. Esatto, di puro malto, e sempre immancabilmente in centinaia, direi migliaia di concerti che abbiamo fatto, lui cercava sempre Paolino, perché mi chiamava così: dov'è Paolino? Dov'è Paolino? Tra l'altro mi dava sempre del lei, e del lei a tutti, anche se sai, come amicizia decennale, ma sempre del lei, per sempre mantenere così le giuste distanze. Paolino, dov'è Paolino? Dov'è Paolino? Mi cercava, e ci dovevamo bere insieme, io e lui, il goccetto di whisky prima di entrare in scena. E poi il famoso Allegher. E l'Allegher che lui diceva e dispensava a tutti prima di entrare in scena, cosa che mi è rimasta, perché nei miei show e nei miei format, poi magari ricorderò ai nostri ascoltatori, io sono anche un autore televisivo, tutte cose che ho appreso molto anche da lui, e questa frase, anzi questa parola, Allegher, è rimasta nel mio cuore, nella mia mente, e come augurio io la dispenso all'inizio di ogni mia rappresentazione. Beh, metterei un po' da parte whisky e altri liquori, perché forse è il caso di parlare di sangria per la prossima che ascoltiamo, è Torero. Tu pierdo suono in coppe e giornalette, e mamma te minaccia, e padre te s'arraggia. Te fanno girare a capo sti fumette, guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in uno studio più. Oh, torero, te si piazzato in capo stu sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato. Torero, questi basetta sudamericano, un usigari avane a gamma se le picche. Torero, torero, olè. T'hai fatta giacchettella corta corta, e casuncella stritta, ti ho riccioli in fronte. Te rida gente a rete, non t'importa, te sento un Marlon Brando che a spasso se ne va, per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood, e innamorata tu in un te voglio. E torero, te si piazzata in capo stu sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolero ciacciacchi un brugliato. Torero, questi basetta sudamericano, con un sigari avane a gamma se le picche. Torero, torero, olè. Cia cia cia. Cha cia cia. Cia cia cia. Oh torero, elevati la cava sto sombrero. Non si spagnolo e non si caballero. Sti nacchere tu non ne sai suona. E sti nacchere tu che ne fa belli mamma. Torero, custi basetta sudamericano, custu sigari avani a gamma se le picche. Torero, torero, olè. La famosissima Torero, e non solo in Italia, caro Paolo Travagnin, perché ricordiamolo, un'abilità di Carosone era quella di ritornare al grande pubblico, come fece nel 75 in Italia alla Bussola, però poi non approfittare di questo rilancio, ritornare e fare una sorta di buon ritiro. E fece lo stesso in Spagna, che tornò dopo tanti anni, dove scoprì che appunto Torero era ancora così fresca come canzone, perché era stata una numero uno in Hit Parade. Certo, certo, e qui ci avrei da dire veramente tantissime cose, ma lui è poi è uso a questi rientré, queste uscite, non si fa più sentire, poi rientra alla grande, era una sua caratteristica, e peraltro devo dire anche molto ben studiata e giusta. Io posso dire solo questo: il primo concerto in assoluto dopo le prove che ti dicevo di 8 ore al giorno per i mesi eccetera eccetera, il primo concerto in assoluto che abbiamo fatto e abbiamo così eseguito è proprio stato a Valencia. Un'estate siamo partiti, questa è una cosa che non mi dimenticherò mai, partiti, arrivati lì la sera stessa, albergo, sai, è tranquillo, il giorno dopo si monta in macchina e si va verso il luogo del concerto in Spagna. Io dicevo, boh, ma non capivo ancora, no? Chissà che accoglienza ci sarà. Esatto, e sono arrivato, ho visto questa macchina a non finire, gente, movimento, e così un po' ingenuamente ho chiesto, ma c'è qualche concerto, c'è qualcuno qui di famoso? E mi hanno risposto, siete voi. Ma come siete voi? Io non mi rendevo conto di questo. Poi la sera stessa, quando così ho dovuto introdurre uno dei brani insomma famosi di Carosone sul palco, luci accese, io introduco il brano, hanno inquadrato diciamo con le luci un po' la platea, e ho visto Testi a non finire, un colpo, le mani che gocciolavano, insomma una tremenda emozione, però indimenticabile. Restiamo in Spagna, anche perché si cita una certa Toledo, ma poi ne parleremo più approfonditamente, di questa canzone scritta da Pazzaglia e da Modugno, Io, mamma te e tu. Canta Napoli, Napoli a spasso. Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non porta nessuna pista a te. Invece un monofrate, na soro non pote, sola non stai una volta, a scimma sembra tre. E mai promesso domani, chi lo sa, vengo io soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma, te tu, passeggiamo per Toledo, noi annanze, mamma, t'arrete. Io, mamma, te tu, sembra piesse così pazze, che sta venendo puro viaggi nozze. Iammo cinema balla, si cerca mi ci squaglia, come un carabiniere che la vena ci afferra. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io, mamma, te tu, io, mamma, te tu. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscir solo con te. Non file voce però trovai mamma, dalla bambina va faccia accompagna. Io sono detto, iammo barro chiadamone, vuoi cuppetto, vuoi spumone, che le cago sticchio, per ricordi sta giornata, dinda villa ci hanno fatta foto. Vuo pallone, vuo babà, non si fide cammanà, guarda essa, guarda mare, sto pensando e ciamanà. Tu mi inguaiate, mi sposanate, non mi vedo più. Mamma ta sora te tu, mamma ta sora te tu. Siamo cinema a ballà, si cerca a me ci squaglia, con menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io, mamma te tu, patata frate te tu, mamma te sora te tu, patata frate mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te patata frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te patata frate ya te venna. E questa era Io, mamma e te tu, tutta l'ironia ancora una volta di Renato Carosone, una Toledo e soprattutto una grossa stima anche per Domenico Modugno. Spesso cantava canzoni di Modugno, comunque apprezzava la sua arte. Sì, sì, il maestro ha immesso nel suo repertorio vari brani di Modugno, giustamente perché lo apprezzava, come lo apprezzo anch'io, insomma, diciamo, uno dei padri, se non il padre della canzone, insomma, moderna, grande personaggio. E come al solito grandissimo senso degli umor, senso della misura del maestro che puntualmente nelle sue esecuzioni, e ribadisco live perché per apprezzarle a pieno bisognava vederlo dal vivo, e anche proprio in questo caso con Io, mamma e te tu, grandissima ironia sia dal punto di vista testuale proprio dei testi, sia dal punto di vista musicale con l'arrangiamento proprio specifico e commistione tra la musica classica, il jazz, la bossa nova, cosa nella quale lui era un maestro, anche coadiuvato chiaramente da nuovi musicisti, perché sinceramente se li è l'ultima parte, insomma, della sua vita anche musicale, li ha scelti in maniera proprio oculata, devo dire un gruppo veramente, veramente in gamba. Poi magari li ricordiamo. Certo, abbiamo sempre detto di Renato Carosone che era un passo avanti alla musica in corso, ed era un passo avanti anche con l'attualità, perché molti e molti anni fa cantava Caravan Petrolle, quindi sul caro benzina, questa Napoli anche un po' arabeggiante, no? Certo. Però insomma era come dire un precursore dei tempi, come tutti i grandi artisti. E allora Caravan Petrolle. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Napoli, Caravan Napoli petrolifera, Caravan Petrol, Caravan. Ma già affittato nu camel, ma già cattato nu turbante, nu turbandarina, scende con pennacchio rosso e blu. Co fiasca a mano da Murriella, cerco petrolio americano, mentre balla nei beduini, mentre canta nei tribù. Come si bella a cavalla stu camella, con vino, con la tracolla, con turbandi un archile. Que si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della, non è cosa che ho petrolio, non c'è sta. Alla, alla, alla. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla stu camella, con vino, con la tracolla, con turbandi un archile. Co fiasca a mano e co camella, che guardi annanzi a folla a rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato pazzariello, se trovo stu da me nel licca mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? come si bella cavalla stu camella gobbino glatta con la coturban di un archile. Uè si curioso mentre scava stu portu si scorda della donna cose che ho petrolio non c'è sta. Come si bella cavalla stu camella gobbino. I wanna yana. Non voglio più scava, ah, come so bella cavalla stu camella gobbino glatta con la coturban di un archile. Caravan petrol, caravan petrol, caravan, caravan petrol, caravan petrol, caravan, caravan petrol. E questa era Caravan Petrol, caro benzina, tanta ironia, humor di Renato Carosone in primo piano e un po' questo fil rouge. Abbiamo parlato nella puntata precedente di appunto un legame tra la Napoli e l'America, quella hollywoodiana, quella newyorkese, in questo caso invece un po' il mondo arabo che torna, e torna anche quando si deve appunto parlare di questo mondo inevitabile Caravan Petrol, riproposta, che so, penso il primo che viene in mente Renzo Arbore o anche altri che ripropongono la canzone di Carosone. Beh certo, questo poi è un classico filone proprio napoletano, immettere questo senso orientale, questo senso un po' arabo, ma questa è anche storia, insomma. Certo, perciò, certo. Perciò è storia della musica, perciò si ripete. Proprio riascoltando questi brani, adesso veramente è un po' sconvolgente questa sua attualità, cioè sta dicendo sì. Delle cose, ma poi sentiremo anche in brani più avanti, nella prossima puntata, diceva parecchi anni fa cose che puntualmente si stanno verificando, è una cosa. Quindi è stato un po' Nostradamus. Veramente sconcertante. Oh, le capacità linguistiche di Renato Carosone erano tantissime, perché lui riusciva, come ad esempio in Piglia della Pastiglia nella scorsa puntata, a così mettere insieme tante di quelle parole che nemmeno il rapper americano più veloce riuscirebbe a formulare. E nella prossima, cioè ascolteremo Sarracino, vedrete proprio che è una sorta di scioglilingua. Sì, ma lui amava tra i suoi giochi, sai, mi ricordo, sai, lui amava anche fare dei giochi col pianoforte, per esempio con le uova, amava dire, ma io facevo questo giochetto con le uova, però sapete, con le uova e la fine che hanno fatto, allora le faceva con le palle da tennis, allora faceva il suo famosissimo brano che i nostri amici da casa sicuramente avranno visto in televisione più di qualche volta, nel quale proprio lui suonava con due palle da tennis, così era un giochetto, oppure con le corna, lui suonava con le mani aveva questi giochetti, questo grande senso dello humor, e amava anche giocare con la lingua, perciò in più di qualche suo brano immetteva questo testo vertiginoso, questo testo zeppo, quasi proprio appunto come precursore del moderno rap. Ma addirittura c'è un brano poi che sentiremo, penso la prossima settimana, proprio che è un vero e proprio rap, insomma, molto molto interessante. Intanto continuiamo su questa scia orientaleggiante con O Sarracino. O Sarracino, O Sarracino. Tenga pill ric ric, l'uocchi e briganti o solo in faccia, ogni figliola s'appiccia se lo vede passare. Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca, e se ne va smargiassa per tutta la città. O Sarrasino, o Sarrasino, bello maglione, o Sarrasino, o Sarrasino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sapa fa amore, e malandrino, e tentatore, se ho guardata va fanno ammurare, e una bionda s'avvelena, e la bruna se ne muore, e velena calamita, chi ste femmina che la fa, o Sarrasino, o Sarrasino, bello guaglione, e belle facce, e belle core, tutte femmine fanno ammurare. Sarracino, un altro classico di Renato Carosone, mentre stiamo per così dirigerci anche per oggi verso i saluti finali, ma abbiamo ancora così qualche nota da spendere, qualche episodio raccontato da Paolo Travagnin sull'album del 1989 che vedeva Renato Carosone partecipare al Festival di Sanremo con la canzone che dava il titolo appunto a questo intero album, Una canzoncella doce doce, ma c'era anche questo brano che annunciavamo molto avanti, tanto per cambiare, ovvero sia Caim Mafà. Sì, penso sia l'ultima sua fatica discografica e l'unica con, alla quale io ho avuto il piacere di partecipare con questo gruppo. Begli arrangiamenti, un bel disco, veramente un po' troppo. Poco sentito, perciò sono felice insomma di riproporlo in questa sede. Caim Mafà, proprio dicevamo, grandissimo dispendio linguistico del maestro che ha creato un testo attualissimo, una cosa che stavo riascoltando poco fa. Imbarazzante. Sì, sconcertante, ma io più che parlare lo farei sentire perché è veramente attualissimo. Allora, dal 1989, dall'album Una canzoncella doce doce, ancora una volta il maestro Renato Carosone con Caim Mafà. Il Corriere di stamane dice che non si va avanti e la gente si lamenta della poca serietà. Caim Mafà, per risolvere il problema della poca serietà. Il governo spara zero sullo scandalo edilizio, ti condona, ti perdona, piglia i soldi e se ne va. Caim Mafà, Caim Mafà, io non ho capito ancora di quei soldi che ne fa. comune, alla regione, la regione al Parlamento, che in attesa della legge la questione studierà. Caim fa, Caim fa, e mentre il medico lo studia l'ammalato se ne va. Cominciò con Casablanca la famosa operazione, l'uomo entra in pantalone ed in gonna se ne va. Caim fa, Caim fa, e se continui chi sto passo poi di sopra chi ci va. CGL, CGL, Will, mosso tirano i capilli perché al vertice si sa che la base non ci sta. Caim fa, Caim fa, e non sanno manca loro quali pisci hanno pigliato. Il petrolio è già aumentato $5 al bidone, ma se il prezzo calerà il bidone resterà. Caim fa, Caim fa, affittatevi un cammello che vi costa la metà. La pensione è cosa seria e la cosa mi interessa, ma se infuria l'inflazione la pensione dove va? Caim fa, Caim fa, aspettate un momento che ripilo, che è importante l'edilizia, la regione, parlamento, inquinamento, sindacato, pensionato, ricevuta, ristorante, tassa qua, tassa là, non te fanno più cambà, con la pioggia di miliardi, lotterie e le fortune, non fatichi più nessuno, né ma pochi tu fa fa, se non sei sponsorizzato tu ti fa sponsorizza, e così se cadi giù, lo sponsor ti tira su, nel partito radicale, tutti i giorni carnevale, socialista e PSD, a braccetto col PRI, il PC all'ADC, levato tu cam. Metti il ministro delle finanze, guarda storto il cittadino, evasore, malandrino, che sta storia da fornì, si è allargato il Parlamento con i nuovi deputati, ciccio qua, ciccio là, ciccio qui, ciccio lì, il bilancio è sbilanciato, non si può più andare avanti, qui le casse vanno in bianco, che più bianco non si può, contro scippe e delinquenze, che può fa magistratura, spatta capa, faccio mure, mette tutti in libertà. Caim fa, Caim fa, e qua nemmeno il Padre Eterno sa perché la cadda fa. Fratelli di E siamo arrivati al momento dei saluti anche per questa seconda puntata del Mondo di Carosone con Paolo Famiglietti e Paolo Travagnin. Paolo, allora siamo pronti per riascoltare fra 7 giorni ancora delle belle performance del maestro? Siamo prontissimi e non vedo l'ora che passino questi 7 giorni per ritrovarmi qui in splendida compagnia con te e con la struttura di Radio Vaticana. Tra altre cose avremo la musica italiana in primo piano perché sarà proprio la settimana del Festival di Sanremo. Quindi da Paolo Famiglietti e Paolo Travagnin un grazie per l'ascolto e a risentirci fra 7 giorni con il Mondo di Renato Carosone. Avete ascoltato Il Mondo di Carosone. Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta.